mi hai spezzato il cuore. Dicevi ti volevi, giuravi di amarmi, mi manchi da morire. Ma perché non vuoi capire? Senza te non sono niente, sei la luce all'orizzonte, sei senza te, sento il bisogno.